Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Gli edifici sotto la tutela delle belle arti in Italia, o anche solo di interesse storico, sono moltissimi e, come sappiamo bene, rappresentano un patrimonio da tutelare che è importante anche proprio per le sue ricadute economiche sul nostro paese, per esempio in termini di turismo. Ora, è possibile conciliare questa cura per il paesaggio urbano ed extraurbano con l'esigenza di rendere sempre più efficiente dal punto di vista energetico il settore residenziale? Ovvero, c'è modo di rendere efficiente un immobile di pregio senza stravolgerne la natura e l'aspetto? Ebbene, è quello che tenteremo di dimostrare a partire da stasera, raccontandovi alcuni casi di successo di operazioni di questo genere. Il primo che vogliamo raccontarvi arriva da Padova, ne parliamo con Lucia Corti che con Elena Rigano forma lo studio Laboratorio di Architettura Ecologica che appunto ha sede a Padova. Buonasera Lucia Corti. Buonasera Maurizio, buonasera agli ascoltatori. Allora, stiamo parlando di un progetto che tra l'altro ha vinto anche il Casa Clima Award 2010, uno dei 6 progetti che se l'è aggiudicato, e parliamo di un edificio del 1927. Sì. Una Villa Liberty come ce ne sono tante, se non sbaglio, in quella zona, vero? Sì, è un quartiere della città pieno di edifici di questo tipo, è un vecchio edificio del 1927, come ha detto lei, è una vecchia casa, circa 250 metri quadrati, però i metri cubi sono tantissimi, questi edifici avevano i solai molto alti, certo. 3,5 metri. Ed aveva dei consumi abbastanza importanti, le bollette viaggiavano sui 4.500 euro ogni inverno, eravamo attestati sui 28 litri metro quadro anno. 28 litri metro quadro anno, che è un modo appunto per esprimere i consumi, vuol dire che una casa di 100 metri quadri consuma 2.800 litri di gasolio in un anno. Esatto. È un modo di... Ecco, e dopo questa operazione qual è stato il risultato? Il risultato teorico attualmente è quello dei poco meno dei 4 litri metro quadro anno. Quindi, poi li verificheremo nei prossimi 3 inverni. Naturalmente queste case vengono monitorate per un certo periodo. Ecco, voi siete già al secondo inverno, comunque sì, sta funzionando, possiamo dire che più o meno, insomma, per ora sembra che tornino i conti. Sì, siamo attestati sui 5 litri. Naturalmente i consumi teorici vanno poi verificati perché ci sono dei problemi e delle condizioni al contorno che non sempre sono rispettate poi. Esatto. D'accordo, quindi da 28 a 4-5 litri di gasolio per metro quadro anno. Ecco, come avete fatto? Quali sono stati gli interventi principali? Parliamo di una casa, per esempio, che ha dei muri, tanto per capirci, fatti con che cosa? Beh, la casa è fatta in mattone pieno, è una vecchia casa con i muri massicci, però essendo un edificio Liberty aveva tutta la facciata di sud con dei fregi storici che volevamo assolutamente mantenere. Per cui abbiamo fatto un cappotto esterno in fibra di legno nei tre lati di nord, sud, nord, est e ovest, mentre a sud, per salvare appunto questi fregi, abbiamo operato con un cappotto interno in silicato di calcio e fibra di legno per evitare il classico problema della condensa interstiziale. Quando si fa il cappotto interno, questo è uno dei rischi più grossi, sì, che si corre. Ecco, in generale le capotature hanno questo problema, che se sono fatte male rischiano di produrre muffe, accumuli di umidità in casa, vero? Sì, esatto, fenomeni anche di la condensa interstiziale che può portare proprio alla marcescenza di alcuni elementi costruttivi perché non la si vede e quindi l'umidità che cerca di andare ad condensarsi sulle pareti fredde si accumula di nascosto dentro proprio interno, nei muri, esatto. Quindi soprattutto in questi muri di mattoni pieni immagino che siano, esatto, sì, sono delle spugne abbastanza fredde. È anche questo il motivo per cui all'interno di tutta l'impiantistica che abbiamo installato abbiamo deciso di mettere anche la ventilazione meccanica con recupero di calore. Ecco, che è una soluzione, adesso spieghiamo un po' meglio di che cosa si tratta, che normalmente viene applicata nelle case in classe A, comunque con un'efficienza piuttosto spinta. Ecco, diciamo che cos'è? È una soluzione, diciamo è una ventilazione meccanica, per cui un ricambio dell'aria automatico che va 24 ore su 24, che ricambia l'aria molto lentamente, per cui non c'è il discomfort della velocità dell'aria che si certo. Muove. Nelle case nuove, per esempio quelle di legno, in cui viene fatto anche il test di tenuta all'aria, è un'impiantistica obbligatoria per avere certo. Il ricambio dell'aria. Altrimenti sono proprio a tenuta stagna, esatto, quelle case lì. Esatto. Certo. Diciamo che in edifici come questo la ventilazione meccanica in cui c'è il ricambio dell'aria con il recupero di calore, sì, quindi non si hanno perdite di energia con il ricambio dell'aria, le mettiamo in opera per evitare che eccessi di produzione di umidità come quando si cucina o si fa la doccia, vadano a condensarsi in quei punti in cui, malauguratamente, essendo un edificio esistente, si fa tutto il possibile, ma non sempre si riescono a risolvere perfettamente tutti i ponti termici. Le case esistenti noi non possiamo sollevarle da terra e incartarle con l'isolante, come ce possiamo fare con le case nuove. Ecco, d'accordo, è un'operazione tra l'altro questa che richiede proprio la realizzazione di un impianto di ventilazione in tutta la casa, quindi è la classica operazione che si fa quando si va a ristrutturare pesantemente l'edificio. È un impianto dalla gestione, dal costo e dal costo di manutenzione molto basso, però è un impianto che per essere messo in opera è abbastanza... Ecco, richiede un certo numero di opere murarie. Sì, in questo caso però, avendo i soffitti molto alti, abbiamo deciso di abbassare con una controstruttura solo quelli dei corridoi, così abbiamo potuto far passare agilmente queste tubature. A proposito, quando si va a fare un intervento di ristrutturazione totale, diciamo, di un edificio, anche di sanificazione, e prima o poi è inevitabile, questa attenzione per avere un edificio a basso consumo energetico, quanto costa? Sì, questo secondo noi è l'aspetto più interessante. Un edificio che deve essere restaurato o ristrutturato ha dei costi fissi pesantissimi, dalle demolizioni, gli impianti, le impalcature, il progetto, la sicurezza. Noi proponiamo ai nostri clienti proprio di operare con la riqualificazione energetica contestualmente a questa operazione di ristrutturazione, perché abbiamo visto che il maggior costo per mettere in opera questi isolamenti così importanti varia tra il 10 e il 20%, anche l'impiantistica più efficiente. Quindi troviamo assurdo, anche alla luce del fatto che è stato rinnovato il 55% di detrazione IRPEF, ristrutturare senza isolare. Grazie Lucia Corti. Grazie a voi. È tutto, domani torniamo a parlare dei numeri del fotovoltaico che stanno tanto facendo discutere. Buona serata.